Ok, ops, ops, che sbaglio, penso che sono al ventaglio, bro. No, no, hai dato il culo a un bastardo, adesso che vuoi fa? No, no, no, non è colpa mia se non capisci niente, ok. Vado via da qui, qui, la mia lady mi vuole parlare, mi dice rischi a fare finta che sia normale. Vorrebbe il pranzo domenicale, stare coi parenti, con i frate, ma non so fatto per sei serate, quindi cosa vuoi da me? Solo pagine di me, mi sembrava che sto mondo fosse tipo culo, ma è più giungla della giungla. Quindi cosa vuoi da me? Tu sei il tipo che appare solo quando ho bisogno. Io piuttosto resto sul fondo. Oh, oh, che guaio, chi ho il dettaglio sono. C'è una stella in più, yeah. Frate, non siamo di qua, sembra che siamo di Marte. Fra, voglio fermare un tram, per allacciarmi le scarpe. Ho un nuovo Pepsi, non bevo Pepsi. Io con i miei non siamo i Chelsea, sembriamo il Chelsea. Cosa vuoi da me? Cosa vuoi dai fra? Qua sono tutti un po' pieni di sé e pieni di ma, tu vieni di qua. Così ti tratto da rich bitch. Baby, non mi frega niente se ci devo spendere un occhio alla Sric Ric. Volevo essere free, senza manette, senza legami, ho un nuovo monolocale, con le lancette, senza le chiavi. Voi fatevi il film, una settimana da Zala, ehi, hey, stai chiude i G, fate lo sciopero della fama, ok. Ops, ops, che guaio, chi ho il dettaglio, sono isola, solo notarlo, amerei la città, se solo fosse che qualcuno aprisse la mente, ok. Ops, ops, che sbaglio, penso che...